vorrei che fosse come vorrei avere più risposte, ma mai lo potrei. Vedere le cose come le vedi tu, come vorrei che fosse. Io non vorrei restare senza mosse. Non ce la farei, non ce la farei. Adesso parlami con le mani tue, fammi vedere come si fa. Ritornerò sulle tracce, andate via, solitudine e magia, tutto ciò di cui ho bisogno ora. Che fosse, io non saprei vivere senza scosse. Non ci riuscirei, non ci riuscirei, non ci riuscirei. Ma adesso parlami con quegli occhi tuoi, fammi vedere un po' più in là. Rifletterò come non ho fatto mai, e anche se non mi crederai, cercherò di essere sempre me stesso. Io rincorrerò le parole sulla scia, troppo presto gettate via, proverò a riportarle qui per noi. Cosa vorrei.